Avremmo potuto liberarli tutti, meno un paio. O forse anche tutti, se avessimo potuto continuare a occupare l'ambasciata e far conoscere al mondo le nostre rivendicazioni. Gli ostaggi erano solo degli strumenti. 2 settimane dopo l'occupazione, l'Ayatollah Khomeini ordina che vengano liberati gli ostaggi di colore e quelli di sesso femminile. Khomeini dichiara che l'Islam nutre un rispetto particolare per le donne e che anche i neri sono vittime dell'oppressione e della tirannide americana. 13 ostaggi americani sono rilasciati dagli studenti della rivoluzione iraniana. Nelle loro mani però restano 52 persone e per loro l'incubo è appena cominciato. Nei primi 3 mesi dell'80 si susseguono le iniziative e i tentativi dei negoziatori. Americani e iraniani si incontrano in gran segreto e elaborano i piani più diversi. Ma la sorte degli ostaggi continua a essere sempre nelle mani di un uomo solo, l'Ayatollah Khomeini. Ma intanto la situazione degli ostaggi continua a essere critica. Continuiamo dopo la pubblicità. Domenica, ore 14:30. Voice Anatomy, Radio 24. Non mancate, sarebbe un peccato. Parola di Bond, James Bond. Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. State ascoltando un programma offerto da Pneumatici invernali Yokohama V905. Metti i tuoi sensi in contatto con la strada. Mix 24, i gialli della storia. Siete ancora all'ascolto di Mix 24, che oggi vi sta raccontando la crisi tra gli Stati Uniti e l'Iran e il dramma degli ostaggi americani trattenuti dentro l'ambasciata di Teheran. Natale 1979. A 6 settimane dall'inizio dell'occupazione dell'ambasciata, gli ostaggi e i loro sequestratori hanno ormai capito che la crisi non si risolverà in breve tempo. Lo Shah ha lasciato gli Stati Uniti ed è a Panama, ma gli studenti continuano a chiederne il ritorno in Iran per poterlo processare. A Washington, nel frattempo, il presidente Carter deve ammettere che tutti gli sforzi diplomatici e le sanzioni non sono riusciti a convincere colui che più di tutti si oppone al rilascio dei prigionieri, l'Ayatollah Khomeini. In questo momento 50 americani sono privati della libertà, sono privati di ogni gioia, sono privati degli affetti, della presenza dei loro familiari. E in questo paese ci sono anche 50 famiglie americane che non potranno vivere il clima di gioia, di luce e di felicità del Natale. 25 dicembre. Da Teheran giunge un invito a 3 sacerdoti americani perché facciano visita agli ostaggi. Volevamo semplicemente provare a portare un po' di gioia a delle persone che ne avevano disperato bisogno. Poi ci dissero: noi non l'avevamo richiesto, ma quando l'invito è arrivato ci è sembrato ovvio accettarlo. Ci portarono al piano di sotto. C'era il reverendo Coffin con la sua tunica rossa di cotone Oxford. Lo studente che fino a poco prima ci aveva creato un mucchio di difficoltà adesso teneva con la mano destra un Marine e con la mano sinistra un altro Marine. Per un momento mi sembrò davvero che fra noi fosse disceso lo Spirito Santo. Sulle guance di quel leader studentesco, prima così duro e ostile, cominciarono a scendere le lacrime. E non poteva asciugarsele perché appunto teneva per mano 2 Marine. Ma intanto il clima di terrore e di paura torna prepotentemente nell'ambasciata americana. Il 4 febbraio 1980 è stato uno dei momenti peggiori, ma anche uno dei più intensi di tutta quell'esperienza. La porta si spalancò ed entrarono delle guardie con il volto coperto. Avevano fucili e armi automatiche. Ci portarono fuori e ci misero in fila contro il muro, con le braccia e le gambe divaricate. Ci fecero spogliare e ci lasciarono in mutande. Camminavano avanti e indietro e ogni tanto ci tiravano l'elastico delle nostre mutande. Ci dissero di poggiare le mani contro il muro e di non voltarci, mentre loro facevano scattare i grilletti delle loro armi. Ti sentì una serie di click. Click. Qualcuno che capiva il persiano meglio di me riconobbe l'ordine per il plotone d'esecuzione. Azergan, puntate. E poi Adavsho, mirate. E poi niente. In quei momenti pensi, il prossimo rumore sarà quello del proiettile che entra nel mio corpo. Uno dei nostri, un militare, si voltò e disse, bastardi, se avete intenzione di spararmi, dovrete spararmi davanti, non alla schiena. Loro continuavano a ripetergli che doveva girarsi, ma lui niente, li provocava a muso duro. Poi cominciavano a sghignazzare, e allora pensavi, brutti bastardi, volete metterci paura e farci andare fuori di testa? Alla fine ci riportarono nelle nostre piccole celle. Ricordo che mi misi ad urlare per la gioia. A marzo dell'80 Carter è con le spalle al muro, stretto tra l'intransigenza di Khomeini da una parte e la frustrazione dell'America dall'altra. Il presidente Carter deve prendere delle decisioni difficili e Carter valuta l'ipotesi di un'azione militare. Da subito Carter ordinò di studiare la possibilità di un'operazione militare per liberare gli ostaggi. Nel frattempo, una volta ci veniva detto che li avrebbero rilasciati, e poi invece che non li avrebbero più rilasciati. Il Pentagono cominciò a mandare dei rapporti. Dicevano di sapere dove erano tenuti gli ostaggi e che il complesso dell'ambasciata era tenuto sotto controllo da parte di nostri agenti a Teheran. A quel punto cominciammo a elaborare un piano per la liberazione degli ostaggi. L'impresa appariva difficile, ma non impossibile. 1 aprile 1980. Mentre il senso di frustrazione degli Stati Uniti è ormai al punto di rottura, in un discorso il presidente iraniano Bani Sadr promette che gli ostaggi saranno consegnati al governo, che provvederà a liberarli. Poi però Khomeini cambiò idea. Così gli ostaggi non furono più liberati. Nei mesi del sequestro siamo stati vicini ad una soluzione almeno una quarantina di volte, solo che ogni volta tutto veniva rimesso in discussione e si ripartiva da zero. Bani Sadr si esponeva con quelle dichiarazioni. Poi però arrivava Khomeini, che in sostanza gli faceva lo sgambetto, delegittimando così quella che doveva essere la leadership del paese. Ciò significava che noi dovevamo trattare con Khomeini, senza però poter avere con lui una comunicazione diretta. Deve essere chiara la piena responsabilità dell'Ayatollah Khomeini e del Consiglio rivoluzionario. E deve essere chiaro che la mancata liberazione degli ostaggi comporterà pesanti costi per l'Iran e per i suoi interessi. Non sapevamo niente. I nostri sarebbero potuti rimanere lì in eterno. Il futuro degli ostaggi ci appariva molto cupo. Eravamo preoccupati per il loro stato, sia fisico che mentale. Ci sentivamo umiliati come nazione. E lo eravamo. Sentivamo che bisognava fare qualcosa. Continueremo a consultarci con i nostri alleati e con gli altri governi amici sui passi che stiamo compiendo e su ulteriori provvedimenti. 10 aprile 1980. Tre giorni dopo questo discorso, Jimmy Carter autorizza la missione per la liberazione degli ostaggi. 25 aprile 1980. La difficile missione per liberare gli ostaggi inizia con 8 elicotteri che da una portaerei nell'Oceano Indiano convergono in una remota località del deserto a sud di Teheran. Qui si devono incontrare con i C-130 per il rifornimento di carburante e da qui devono poi ripartire per trasportare gli uomini dei reparti speciali in una base segreta alla periferia di Teheran. Il piano prevede che il comando assalti l'ambasciata, liberi gli ostaggi e li porti in salvo con gli elicotteri che li attendono in un campo sportivo lì vicino. Ma i problemi cominciano subito. Due elicotteri sono costretti ad abbandonare la missione per un guasto meccanico e per le condizioni del tempo. Quando il C-130, su cui si trova il colonnello Kyle, atterra nel deserto, la missione può contare su 6 elicotteri, il numero minimo indispensabile per poter puntare su Terran. Atterriamo. Un atterraggio per niente facile, ma dopo un po' di sbalzi e scossoni siamo scesi tutti. Poi d'improvviso vediamo arrivare un autobus che punta dritto verso la nostra zona operativa. Come se non bastassero 45 passeggeri terrorizzati sull'autobus, gli uomini di Delta Force vedono arrivare anche un'auto cisterna iraniana. I soldati americani fanno saltare il mezzo, ma sono poi costretti a informare la Casa Bianca che l'autista è riuscito a scappare. Tenevamo sotto controllo l'orologio per essere sicuri di completare il rifornimento, caricare gli equipaggi e fare in modo che l'unità fosse pronta ad intervenire prima dell'alba. Naturalmente, visti tutti questi contrattempi, eravamo in grande agitazione. Poi il colonnello Beckwith, il comandante delle operazioni di terra, mi fa: un elicottero si è spento, dentro ci sono 20 miei tiratori. Tu che ci capisci di queste cose, va a vedere che sta succedendo. Vado a controllare e vedo un elicottero con le pale ferme. A quel punto ci restano 5 elicotteri. E noi, in base ai calcoli fatti in precedenza, sappiamo che non siamo nelle condizioni di continuare la missione. Vista la situazione, Carter decide di annullare la missione e ordina agli uomini del comando di rientrare. È stata una mia decisione tentare un'operazione per liberare gli ostaggi. È stata una mia decisione annullare la missione, essendosi presentati dei problemi nel posizionamento delle unità di intervento incaricate di compiere la missione. La responsabilità è mia e soltanto mia. Anche dopo questo tentativo, l'Iran è per noi responsabile per la sicurezza e per una sollecita liberazione degli ostaggi americani che da così lungo tempo sono tenuti prigionieri. Per Carter il disastro dell'operazione si rivela un colpo mortale a livello politico e in quell'anno ci sono le elezioni presidenziali. Per l'Iran il tentativo militare è l'ennesima dimostrazione dell'aggressività degli Stati Uniti. Per gli iraniani a questo punto nessun dialogo è possibile con gli Stati Uniti di Jimmy Carter, come racconta il leader degli studenti. Ai nostri occhi, il tentativo americano di attaccare il nostro paese era un fatto molto grave. Non era paragonabile a quello che avevamo fatto noi. Attaccando il nostro paese, gli americani avevano violato le leggi internazionali. I loro aerei avevano invaso lo spazio aereo di uno Stato indipendente. Tentavano di giustificarsi dicendo che si trattava di un'azione umanitaria per liberare gli ostaggi. Ma la verità è che quella missione era un'aggressione a tutti gli effetti. La prima conseguenza del fallimento americano è che nel giro di poche ore gli ostaggi vengono divisi e rinchiusi in località segrete sparse per tutto l'Iran. Dopo il tentativo di liberazione fummo caricati su dei pulmini. Mi sentivo come un pollo in batteria. Gli occhi bendati, le gambe incatenate. Sentivo che il camion procedeva in salita e capii che da Teheran stavamo andando verso le montagne. 27 luglio 1980, Reza Pahlavi muore al Cairo. A Teheran, tuttavia, i negoziati sono in fase di stallo, anche se i sequestratori ormai sono stremati quanto i loro ostaggi. Ogni mattina mi svegliavo e mi dicevo: è una cosa ridicola. Loro sono obbligati a stare con noi. Noi siamo obbligati a stare con loro e loro non sanno che farsene di noi. Questa cosa mi metteva un po' di buon umore quando mi svegliavo in quei giorni così cupi. È bella l'immagine di noi come ostaggi dei nostri ostaggi. Ma noi avevamo un obiettivo umanitario: difendere l'interesse della nostra nazione. Gli ostaggi stavano pagando per le colpe di un governo le cui mire loro, poveri diavoli, forse nemmeno condividevano. Gli ostaggi erano strumenti nelle mani del governo americano. E noi eravamo gli strumenti del nostro paese. E siamo all'estate del 1980. Dalla cattura degli ostaggi sono passati 9 mesi. Gli iraniani che tengono prigionieri gli americani cambiano di nuovo la loro tattica. Una volta ancora gli ostaggi vengono trasferiti e la destinazione è di nuovo Teheran nel carcere di Komiteh. L'arrivo al carcere di Komiteh fu un altro dei momenti peggiori. Mi chiedevo, ma quanto deve durare ancora questa cosa? Ormai è una faccenda istituzionale. Ci stanno addirittura mettendo in una delle prigioni più dure di tutto il paese. Poi all'improvviso ho sentito un urlo da gelarti il sangue, proveniente da chissà dove. Eravamo in quattro nella cella. Ci siamo svegliati e ci siamo guardati negli occhi. È stato uno dei giorni più terribili della mia vita. Stavano torturando qualcuno e la cosa andava avanti senza sosta. Sono passati 11 mesi dalla presa degli ostaggi quando il 22 settembre dell'80 l'Iraq di Saddam Hussein invade l'Iran e sarà proprio quella guerra a decidere le sorti di quel sequestro. Per fronteggiare l'esercito di Saddam, Khomeini ha bisogno di armi e per comprarle ha bisogno dei soldi che Carter ha congelato nelle banche americane. All'inizio del conflitto, Khomeini temeva che la guerra avrebbe distrutto l'Iran. Per questo era assolutamente d'accordo che bisognava risolvere la crisi degli ostaggi. Ma la diffidenza reciproca, le difficoltà delle trattative e i dissidi interni alla leadership iraniana ritarderanno la liberazione di altri 4 mesi. Khomeini aveva detto lo Shah deve andarsene e lo Shah se n'era andato. Ora diceva Carter deve andarsene e Carter se ne doveva andare. Voleva dimostrare che un paese come l'Iran poteva decidere, al posto del popolo americano, chi dovesse essere il nuovo presidente degli Stati Uniti. Il 4 novembre dell'80, esattamente un anno dopo la cattura degli ostaggi, Ronald Reagan diventa presidente degli Stati Uniti. L'America dunque non ha perdonato a Carter il fallimento del suo blitz. E anche Khomeini si è liberato del suo nemico, Jimmy Carter. Ora è pronto a trattare per la liberazione degli ostaggi americani. Ma a questo punto i tavoli delle trattative diventano due. Da una parte c'è quello dell'amministrazione uscente di Jimmy Carter coi suoi uomini, dall'altra quello degli uomini di Reagan, che si insedierà ufficialmente solo nel gennaio dell'81. A trattare per l'Iran, invece, sono gli intermediari algerini. Per 10 settimane gli intermediari algerini fanno la spola fra i due continenti per cercare di raggiungere un accordo. Poco prima del Natale 1980, gli ostaggi vengono portati via dal carcere e preparati all'imminente liberazione. Quando i diplomatici algerini vennero a trovarci, capii che qualcosa finalmente si stava muovendo. Dal carcere fummo trasferiti in un luogo molto bello e confortevole. Credo che in realtà fosse una mossa propagandistica degli iraniani, per non far vedere agli algerini in che condizioni ci tenevano. Dopo una visita medica frettolosa, mi portarono in una specie di redazione di un giornale e mi fecero domande tipo: non è stato così terribile, vero? Dica la verità, è stato bene? E io: oh, certo. Gli iraniani ci trascinarono in una stanza per poterci filmare. Dovevamo dichiarare davanti alle telecamere quanto fossimo stati trattati bene. È stata fatta tanta propaganda su quello che vi è successo qui. Hanno voluto far credere a tutti che vi è stato fatto il lavaggio del cervello, che siete stati torturati, che siete stati maltrattati. Vi è stato fatto il lavaggio del cervello? No, non ci è stato fatto. E dovunque sarò in futuro, racconterò come è andata realmente. Volevano che dichiarassi che il soggiorno era stato molto piacevole. Io dissi: non mi importa se mi avete tenuto all'Hilton di Teheran, circondato da ballerine. Mi avete comunque trattenuto contro la mia volontà. Ma dietro le foto e le dichiarazioni per la propaganda della rivoluzione, anche gli ostaggi capiscono che qualcosa sta cambiando per davvero. Forse dopo 444 giorni è davvero arrivato il momento di tornare a casa. Una delle guardie entrò e disse: andiamo. Chiedemmo: dove andiamo? E loro ci risposero: tornate a casa. Nessuno guardava gli altri negli occhi. Non ci avevano mai detto che ci avrebbero rimandato a casa. Eravamo stati trasferiti così tante volte che ci portammo dietro più cose che potevamo. Dissi: sentite, io voglio fare la valigia. Io sono un diplomatico americano e non me ne vado di qui conciato a questo modo. Sono arrivato che avevo addosso un vestito e delle scarpe. Le scarpe me le avevano portate via parecchio tempo prima. Voglio che troviate il mio vestito e le mie scarpe. Me ne andrò solo allora. Ci portarono fuori bendati e ci fecero salire su un autobus. Non sapevo se ci avrebbero portati in un'altra prigione o se stavolta saremmo andati veramente all'aeroporto. Il trasferimento verso l'aeroporto poteva finire male. C'era grande nervosismo. Alcuni studenti erano decisi a non farci andare via. Non ci stavano a mollare l'osso che aveva dato loro tanta visibilità politica. L'autobus attraversò le strade di Teheran. Siamo rimasti lì per un tempo interminabile, sballottati lungo quelle strade sconnesse. Una delle guardie nell'autobus mi diceva: stai zitto. Poi aggiunse in persiano: Bdersitam Amerike, che significa bastardo di un americano. Io allora gli risposi: sta zitto tu, brutto figlio di buona donna. E quello si offese a morte. A Teheran l'unica cosa veramente in discesa e fuori dal mondo è l'aeroporto. Alla fine sentimmo il motore degli aerei che ci avrebbero portato verso la libertà. Man mano che ci avvicinavamo, però, cominciamo a sentire un rumore assordante che quasi sovrastava quello dell'aereo. Era il rumore della folla. Gli ostaggi corrono a bordo dell'aereo che li riporterà a casa, ma a bordo per loro c'è una sorpresa. Per la prima volta, infatti, da mesi si ritrovano di nuovo tutti insieme. Ritrovare tutti gli altri è stata una gioia incredibile. Ci siamo gettati gli uni fra le braccia degli altri. Ci abbracciavamo, ci stringevamo la mano. Avevamo gli occhi pieni di lacrime. Abbiamo cominciato ad abbracciarci, a baciarci, a piangere. Una gioia incontenibile così si prova solo poche volte nella vita. Ciascuno cercava di ricordare i nomi degli altri. Era come una rimpatriata di vecchi compagni di liceo, anche se non avevamo avuto modo di conoscerci bene. Una cosa fantastica. Fu una vera festa. Parlavamo tutti a mille all'ora. Volevo sapere come erano stati trattati gli altri, come era andata. Ma erano due le domande che tutti facevamo immancabilmente. Tutto a posto? E ci siamo tutti? È il 20 gennaio dell'81 a Washington, alla Casa Bianca. Jimmy Carter sta per passare le consegne a Ronald Reagan. Nelle ultime ore, nell'ufficio ovale, l'ex presidente aspetta la notizia dall'Iran. Come racconta Gary Sick, assistente alla Casa Bianca per l'Iran, e Jordan Hamilton, responsabile della comunicazione dell'amministrazione Carter. Gli ostaggi erano sull'aereo, che era sulla pista di decollo a Teheran. Di questo parlavamo con Carter mentre andavamo alla cerimonia di insediamento del presidente Reagan. Anche se, ovviamente, avevamo sperato che venissero liberati sotto la nostra amministrazione. Dopotutto li avevamo tirati fuori noi, ma purtroppo questa soddisfazione ci fu negata. Io, Ronald Reagan, giuro solennemente che adempirò con fedeltà al mio incarico di presidente degli Stati Uniti. Aspettarono che il presidente Reagan pronunciasse il giuramento e dopo 5 minuti liberarono gli ostaggi. Mentre volavamo nello spazio aereo iraniano, eravamo molto tesi. Avevamo paura che magari un pilota folle avrebbe abbattuto il nostro aereo. Poi il comandante dell'aereo annunciò: stiamo lasciando lo spazio aereo iraniano. Solo allora ho capito che eravamo davvero liberi. Ma sarà Jimmy Carter ad annunciare ufficialmente la liberazione degli ostaggi. Mi è giunta ufficialmente la notizia che l'aereo con a bordo i 52 ostaggi americani ha lasciato lo spazio aereo iraniano per la prima tappa del viaggio di ritorno e che tutti i 52 ostaggi sono vivi, in buona salute e liberi. Dopo 444 giorni, finalmente l'incubo è finito.